cosa sai delle mie emozioni. Se ti trovo qui davanti con gli occhi bagnati, prova a dirmi che tu mi scambi per un altro e che per te io non conto più. Cosa sai di quello che ho da dirti, confrontandomi col fatto che hai smesso di amarmi? Dovrei forse picchiarti oppure sgridarti, sapendo che ora non mi ami più. Dai, lo sai, non fa parte di me. Mi farei male vedendoti godere, e lo so, è un problema divorziare. Cosa farei avere il tuo sorriso? Io per te darei quasi 20 anni di vita. Cado giù, penso a te, bacio il suolo su cui cammini, sperando che ritorni da me. Suolo su cui cammini, sperando che ritorni sperando che torni da.